America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Chicago. Mario Platero, il mio ultimo collegamento di questi giorni dalla città del vento. Si sono chiusi 4 giorni di vertici intensi, prima un G8 e poi il vertice della NATO. Sentiamo il presidente Obama. I could not be prouder to welcome people from around the world to my hometown. Barack Obama saluta 50 paesi che hanno partecipato alla riunione di ieri. Oltre ai 28 membri della NATO c'erano anche i paesi, 22 paesi che sono stati schierati al fianco e continuano ad essere schierati al fianco dei membri della NATO in Afghanistan. È stata una riunione importante, lo dico questo anche dal mio punto di vista, perché insomma l'Occidente sta vivendo un periodo difficile, però nel momento in cui si parla solo di declino, di crisi economica, in questi 4 giorni c'è stato almeno il tentativo di rimettere l'Occidente un po' al centro del dibattito mondiale. La NATO resta sicuramente, come mi ha detto il generale Allen, che ho visto al Chicago, la pietra angolare della sicurezza mondiale. Since last year we've been transitioning parts of Afghanistan to the Afghan National Security Forces, and that has enabled our troops to start coming home. Indeed, we're in the process of drawing down 33,000 US troops by the end of this summer. Afghan forces will take the lead for combat operations next year in mid 2013, so that Afghans can take responsibility for their own country, and so our troops can come home. La parte centrale, naturalmente, degli incontri di ieri ha riguardato l'Afghanistan. C'è un progetto di ritiro del 2013, ci sarà in quel momento una transizione, un trasferimento dei poteri militari, del controllo militare del 100% del territorio, oggi è al 75% nelle mani dell'Afghanistan. Ecco, a quel punto il 100% del territorio dal punto di vista del controllo militare passerà alle truppe afghane. Ci sarà poi un anno cuscinetto in cui le truppe degli alleati della NATO resteranno con operazioni di copertura, di retrovia e faranno anche operazioni di addestramento. Il ministro Giulio Terzi, che ha sostituito il presidente del Consiglio Mario Monti a questi incontri, Monti, ricordiamolo, in una situazione molto drammatica, è dovuto rientrare improvvisamente in Italia dopo l'attentato a Brindisi, dopo il terremoto. Ecco, il ministro Giulio Terzi ha rappresentato il nostro paese durante gli incontri dell'ISAF e ha puntualizzato alcune cose. Intanto ha aggiunto dettagli a una notizia importante: l'Italia contribuirà con 120 milioni di dollari all'anno per 3 anni a questo fondo di 4,1 miliardi all'anno fra il 2015 e il 2017. Terzi ha detto: questo piano sostituisce sia per qualità che per dimensione l'esigenza di finanziamento delle forze di combattimento logistiche sul terreno. Per questo, dice, l'assistenza italiana sarà considerevolmente inferiore rispetto all'attuale richiesta per il finanziamento delle forze che ora sono operanti sul terreno. Infine, un messaggio su Twitter del nostro ministro degli esteri: l'Italia ha giocato un ruolo importante. Devo dire, è vero, l'Italia ha svolto un ruolo importante, lo ha svolto fino all'ultimo. La Francia, lo ricorderete, con Hollande ha deciso di ritirarsi nel 2012. E beh, insomma, Terzi dice: noi abbiamo sposato il principio tutti dentro insieme, tutti fuori insieme, e dunque l'Italia resterà schierata anche militarmente con gli altri fino alla fine. Ma non c'è stato soltanto Afghanistan. Ieri si è anche deciso di lanciare lo scudo spaziale, che sarà schierato in Spagna, Polonia, Turchia, Romania. Si è deciso di fare un passo in avanti sul cosiddetto smart use, smart forces, cioè l'uso intelligente delle risorse militari. In un momento di crisi bisogna risparmiare. Si è deciso di riaffermare il principio che la NATO continuerà a appoggiare, nel momento in cui vari paesi aspirano ad averla, sulla forza, su un arsenale nucleare. Archiviata la NATO, il presidente è già in campagna elettorale. Sempre ieri in conferenza stampa, a un certo punto ha affrontato la questione di Romney, ha lanciato un attacco diretto, rispondendo a una domanda sul private equity e sui profitti, al suo concorrente presidenziale. Sentiamolo. This is part of the debate that we're going to be having in this election campaign about how do we create an economy where everybody have a shot at success. And the reason this is relevant to the campaign is because my opponent, Governor Romney, his main calling card for why he thinks he should be president, he's saying, I'm a business guy and I know how to fix it, and this is his business. And when you're president, your job is not simply to maximize profits. Your job is to figure out how everybody in the country has a fair shot. dice: questa campagna elettorale avrà un argomento centrale. Il mio concorrente si vende per l'incarico del Presidente degli Stati Uniti rivendicando una grande esperienza, una grande capacità di massimizzare i profitti. Ha gestito un private equity. Ecco, Obama dice: io non ho niente contro i private equity, possono naturalmente fare i profitti. Alcuni lo fanno magari in modo più trasparente, altri in modo più aggressivo, però il capitalismo dice anche quello. Però, sottolinea Obama, fare il presidente degli Stati Uniti non significa essere bravi a massimizzare il profitto. Fare il presidente degli Stati Uniti significa occuparsi di tutti gli americani, di coloro che sono anche in difficoltà, significa investire pensando al futuro, magari fra 10 o 20 anni, non massimizzando un ritorno a breve. Obama ha lasciato Chicago ieri notte, è già andato in Missouri, siamo in piena campagna elettorale e dunque il leitmotiv di questa campagna, come ha detto il presidente americano, ormai è definito: massimizzare i profitti o gestire un paese? Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, se n'è andato Robin Gibb, uno dei leggendari componenti, il cantante dei Bee Gees. Bee Gees, un gruppo straordinario che ha cavalcato gli anni 60, che ha dominato il disco degli anni 70, inizio 80, questa storica band anglo-australiana. Ma fra i trionfi musicali, beh, posso ricordarvi la colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, per esempio, grandissima musica. Ma io vorrei ricordare Robin Gibb qui non con una canzone disco, ma con una canzone che scrissero all'inizio del loro debutto, quando arrivando in America e vedendo la Statua della Libertà si ispirarono a un messaggio, il messaggio della nuova frontiera americana, e dunque una delle più belle ballate della band, Massachusetts. Da Chicago è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.